Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Chi lo festeggia oggi, per chi vorrebbe farlo ma deve aspettare domani, per chi ci ride su, per chi ci piange, per chi ci crede, per chi non ci crede più, oggi parliamo d'amore. Buon San Valentino a voi e buon San Valentino al dottor Marco Rossi, psichiatra e sessuologo, che è venuto proprio a festeggiarlo oggi con noi per darci forse la sua ricetta. Intanto buongiorno e auguri. Buongiorno, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, festeggiamo, dottor Rossi? Ah beh, assolutamente sì, ma non bisogna festeggiare solo a San Valentino. Bisognerebbe in fondo festeggiare le nostre coppie, ma assolutamente 365 giorni all'anno, non solo la manutenzione straordinaria di San Valentino, occorre sempre una manutenzione ordinaria. Tutti i giorni, ogni momento, ogni secondo, io dico sempre. E c'è bella un'indagine di una tedesca che dice che hanno scoperto che gli uomini che prima di andare al lavoro, quindi al mattino presto, baciano la moglie, vivono in media 5 anni di più. Quindi? Ecco, quindi baciatevi. Tutti i giorni, bisogna, anche perché le coppie dopo un po' di tempo non si baciano più tanto. E voi donne minacciate vostro marito dicendogli: guarda che non mi lascio più baciare, così ti accorcio la vita. Esatto. Potrebbe essere uno splendido ricatto proprio il giorno di San Valentino. 800 24 00 24, ma dottor Rossi, per non essere troppo romantici, l'amore è una questione di cuore ma anche di chimica. Ma sì, è bello pensare che è solo una questione di cuore, di emozioni, di sentimenti, ma anche questi sentimenti e queste emozioni sono legati molto alla chimica. Interessante, ci sono dei nuovi studi che riguardano ad esempio l'ossitocina, no? Sì. Che è un ormone molto, molto conosciuto perché è quello che lega la mamma al bambino, eccetera, però si è visto che l'ossitocina è anche capace di dare una passione amorosa alle persone che lo assumono. Degli studi sono stati fatti anche sui topi, che sì, un il po topo come, innamorato. Un topo innamorato è un po' come, no? come diceva Shakespeare in Sogno di una notte di mezz'estate, dove c'era il succo di fiore vermiglio di Cupido, no? Che faceva innamorare della prima persona che incontravi quando ti svegliavi. L'ossitocina ha un po' questo potere, quindi ha il potere di far innamorare molto facilmente le persone, ma anche un'altra faccia della medaglia, perché in certi contesti particolari, emotivi e sociali, può anche far aumentare l'invidia e la rabbia. Quindi questa è una cosa. È un ormone double fast. Double fast. Attenzione. Esatto. Ma dottor Rossi, anche leggendo sui forum, sembra che San Valentino siano solo le donne a volerlo festeggiare perché vogliono i regali. Molti dicono, gli uomini cedono perché sennò le mogli, le fidanzate mettono il broncio. In realtà lei, che raccoglie le confidenze delle coppie, può dirci esattamente la verità. Non è poi sempre così, insomma, non siete costretti voi uomini a festeggiare una festa che non vi sentite. Ma no, non dobbiamo essere costretti a festeggiarla, anche se, diciamo così, il San Valentino può essere l'occasione per recuperare un po' il romanticismo. Perché più al di là del regalo è il pensiero che vuole la donna, e in queste cose, in questo senso, gli uomini spesso sono un po' carenti, cioè dimostrano poco il pensiero che hanno verso la propria amata, magari lo dimostrano nei fatti, ma poco con gesti romantici. E questo è un qualcosa che magari l'idea di San Valentino può innescare un meccanismo virtuoso per farlo un pochino più spesso. Allora, intanto invito i nostri ascoltatori a raccontarci se e come vogliono festeggiare, pensano di festeggiare San Valentino, oppure se, come invitava il dottor Rossi, lo festeggiano un po' tutto l'anno, insomma fanno una manutenzione ordinaria, quotidiana, che non richiede quindi delle manutenzioni straordinarie in un giorno preciso dell'anno. Dateci la vostra ricetta, ma potete chiedere anche dei suggerimenti, fare domande, se avete qualche curiosità sull'amore. 800 24 00 24. E a proposito di curiosità, che cosa ha fatto San Valentino per meritarsi di diventare protettore degli innamorati? Perché proprio lui e non un altro o un'altra? In linea con noi abbiamo il professor Paolo Legrenzi, professore straordinario di psicologia cognitiva presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, editorialista del Sole 24 Ore. Buongiorno professore. Buongiorno. Per rispondere alla sua domanda, diciamo, noi abbiamo una leggenda per cui è stato proprio il Santo Valentino che è riuscito a dirimere una lite tra due innamorati, e che questo raccontano la leggenda, io penso, adesso non credo che abbiamo dati di cronaca, sì. Ma comunque se uno va a vedere, questa è la risposta prevalente, questa capacità di creare l'armonia, che è interessante anche, perché il giorno di San Valentino mostra la eccezionalità dell'opera del santo, perché se uno litigasse tutto l'anno, allora non potremmo avere 365 San Valentino. Certo. Il San Valentino deve essere non diluito e spalmato tutto l'anno, deve essere un giorno che resta eccezionale. Concentrato, tutto lì. Concentrato, perché se ha tanti San Valentini in un anno, diventa meno efficace. Non è che il santo può... Certo, fa un miracolo, ma lo fa una operare. Volta. Esatto, si fa un miracolo una volta. Semeli in anno, appunto. Semeli in anno. Professor Legrenzi, la tradizione vuole che si regalino cioccolatini, rose, però anche che si mandino messaggi d'amore, le cosiddette valentine, che hanno una storia antica e un inventore, se così possiamo chiamarlo, di tutto rispetto. Sì, è vero. Anche si dice con grande letterato, in realtà, avesse mandato questi messaggi, da cui in Francia questo nome delle valentine. Anche qui non voglio spacciare una leggenda per un fatto storico, intendiamoci, però mentre il santo aveva proprio agito direttamente, questo è più un messaggio, sì, che direttamente, senza un mediatore, fanno i due innamorati, e quindi innovano una dichiarazione di amore che, come dico, poi deve stare eccezionale, perché se uno ogni giorno dire che è innamorato, la cosa è... Ma non lo so, il dottor Rossi invece ci suggerisce di dirlo. Com'è che bisogna dirlo, bisogna dirlo, bisogna dimostrarlo. Il professor Legrenzi deve venire un po' a scuola, professore. Secondo me non bisogna dirlo, ma bisogna mostrarlo, che cosa diversissima. Bravo. Vede, questo molto è una maschile. Cosa è diversa, anzi, se ripetuta stessa è meno credibile. Ci sono delle cose, se lei vedesse il più grande film all'innamoramento, che è Baci rubati, che ora purtroppo è stato declassato al nome di un profumo, di Truffaut, sì, lei, la signora di cui è innamorato il romanticissimo giovane Antoine Doinel, gli spiega proprio questo, che eccezionalmente una mattina staranno assieme, e che in realtà, mentre Antoine Doinel è un po' verboso, di questa cosa non parleranno più, non se ne parlerà più e resterà nel loro cuore. Allora delle cose importanti si mostrano, si fanno, si ricordano, ma non si dicono, secondo me. Dottor Rossi. Questo è un atteggiamento corretto, ma tipicamente maschile. Le donne invece hanno bisogno molto più spesso di parlare delle loro emozioni, di parlare e condividere i loro sentimenti. E questa è un po' la diatriba, no? Che c'è tra l'essere maschile e l'essere femminile, perché molto spesso non trovano nel proprio uomo un interlocutore a livello verbale, perché gli uomini davvero magari pensano, ricordano, hanno dei gesti di grande, sì, attenzione, ma poi mancano nel momento in cui devono esprimere la propria emozione. È un po' una diatriba che comunque è anche il bello dello stare insieme tra uomo e donna. Ecco. Certo. Professor Legrenzi, non occorre essere stupidi per fare sciocchezze, il titolo di uno dei suoi libri. Ma esatto, a proposito di sciocchezze, a volte basta essere innamorati per farle. Non c'è dubbio, è quello che in fondo accennavo anche prima. L'innamoramento è una rottura delle regole della razionalità, come posso dire, quotidiana, ed è proprio sullo sfondo della razionalità quotidiana che l'innamorato fa sciocchezze. Le sciocchezze sono la testimonianza dell'eccezionalità del proprio stato d'animo, tanto è vero che le persone, se uno dice sempre innamorato, non è vero, è come Casanova, non è mai innamorato. Le persone si innamorano un numero limitato di volte nella vita, e questo numero limitato delle volte dimostra che in questi casi si rompono le regole abituali, ed è questo il giusto, probabilmente, perché se lei vedesse le cose in chiave evoluzionista, l'innamoramento deve stravolgere il modo abituale di considerare il mondo, perché a quel punto noi vediamo tutto il mondo si riduce diciamo, nell'ottica del nostro innamoramento. E io questo... Sì, scusi. No, scusi lei, professore. E a questo proposito io invito gli ascoltatori a fare un saltino sulla nostra pagina di Essere Benessere, perché nella ricerca che fa bene alla salute, le notizie commentate dal professor Remuzzi, abbiamo proprio una ricerca che sottolinea quello che il professor Legrenzi ci raccontava. Professore, lei vive nella città più romantica del mondo. Che aria tira oggi? No, adesso tira aria fresca. Infatti, se guarda i momenti di romanticismo, tipo Morta Venezia e così via, invece il disfacimento che Venezia mostra come città romantica viene col caldo, diciamo. Il freddo non è adatto allo stereotipo di Venezia in quanto città romantica. Quindi dal punto di vista meteorologico non è il momento. Non è il momento. Però dal punto di vista della forza di innamoramento, se adesso oggi ci saranno sicuro due innamorati a Venezia, visto che ne vengono 15 milioni. Sì, almeno due ci saranno. Ce ne saranno ogni giorno, no, ce ne saranno ogni giorno 10 adesso, perché vengono in quanti innamorati, ecco, per loro la temperatura è rilevante, quello che volevo dire prima. Grazie professor Legrenzi per essere stato con noi, è stato davvero un piacere, a presto. Abbiamo Giuliana che ci chiama da Vicenza, la vostra ricetta per l'amore, 800 24 00 24, per non innamorarvi, perché magari c'è qualcuno che dice io voglio chiudere, basta con questi amori, San Valentino e dintorni. Dottor Rossi, Giuliana, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Io sinceramente non credo molto in San Valentino e non sono d'accordissimo con il professore di Venezia. Sì. Perché credo che invece tutti i giorni sia un buon momento per essere innamorati. E infatti la ricetta che abbiamo io e mio marito è che ci siamo ripromessi il giorno che abbiamo deciso di sposarci di non chiudere mai gli occhi da arrabbiati. E questo è 22 anni che lo facciamo e riusciamo sempre a farlo, e questo sta facendo funzionare molto bene il nostro amore. Grazie Giuliana. Beh, è molto interessante quello che stava dicendo l'ascoltatrice, perché è un principio fondamentale. I problemi di coppia non si dissolvono mai. Cioè tu lasci, no, il problema, l'incomprensione, il litigio, e non lo affronti, rimarrà, e anzi rimarrà dentro i cuori in maniera molto forte, creerà rabbia. I problemi vanno sempre risolti tutti quanti. E il bello è pensare di farlo prima di andare a dormire. Allora, io voglio leggervi i vostri messaggi che arrivano al 349-238-6666. Questa mattina sono uscita alle 6.30 e ho lasciato tanti post-it con su scritto ti amo ed altre frasi in più punti della casa, macchinetta del caffè, sotto le sigarette, le chiavi dell'auto, dentro i trucchi. Alessia, ti amo come amo le nostre due bambine, Angelica e Allegra, e questo ci scrive Raffaele che ha tappezzato di post-it. Invece una ascoltatrice mi scrive oggi sono disperato, ho chiesto a mio marito un gesto più romantico e mi ha riempito di parolacce, che festa orribile. Questo è un... Questi sono i grandi problemi di comunicazione che ci sono spesso e troppo spesso ormai nelle coppie, e anche nelle coppie giovani. Cioè la cosa drammatica è che oggigiorno non sono solo le coppie molto avanti con l'età che si scambiano parolacce e cose del genere, ma anche coppie che magari sono insieme da 2, 3, 4 anni, anche 5 anni, ma è un problema molto forte, molto sentito. Abbiamo Federica da Genova. Buongiorno Federica, benvenuta. Buongiorno, grazie. Federica, lei a che punto è con il suo rapporto di coppia? No, io diciamo a un buon punto, nel senso che sono tranquilla, siamo sereni e le cose vanno bene, ringraziando il cielo. Io volevo intervenire a proposito di quello che diceva il professore di Venezia. Sì, che poi ormai appunto... è stato ribattezzato così, vero? Perché Venezia ci ha colpito. In realtà un nome si chiama... No, mi piace perché è la seconda ascoltatrice che è diventato il professore di Venezia, che è anche bello, certo. Sarà contento. E poi il professor Paolo Legrenzi. Ma mi scusi Federica, perché mi... Anch'io volevo chiamare... No, cioè, ho chiamato perché volevo dire che sono d'accordo con lui. Sì. sì. quando dice che troppa esternazione alla fine diventa quasi banale, no? Perché io vedo spesso, ad esempio, anche in certi film americani, ti amo anch'io, oppure anche da noi adesso c'è la tendenza, ti voglio bene, ti amo, quindi mi sembra un po' abusata e sembra appunto che questo abuso levi un po' di romanticismo al sentimento, ecco, era questo. Quindi che lei dice dire. Non tante parole ma più fatti. Esatto. Ecco, questo è il messaggio di Federica all'800 24 00 24. Intanto, dottor Rossi, potremmo proprio chiedere ai nostri ascoltatori di domandarsi, di raccontarci che fase dell'amore stanno vivendo. Sappiamo che c'è l'innamoramento, poi c'è una fase un po' di metabolizzazione e poi il rinsaldamento. Ah sì, potremmo chiedere loro come vedono la loro coppia, se la vedono più come una fiamma con un'alleanza oppure come una bilancia o delle rotaie. Poi dopo spiegherò magari che cosa voglio dire con l'idea di rotaie. Quindi sono fiamma, alleanza, bilancia o rotaie. Rotaia 800 24 00 24. Ma noi vogliamo, in tutte queste simili metafore che lei ha citato, c'entra anche il sesso? Ma deve e sempre entrarci il sesso. Il sesso è uno dei tre cardini dello stare insieme in coppia e tre cardini dell'amore. Cioè il sesso, l'intimità, l'aiutarsi reciprocamente, il vivere insieme e poi c'è la progettualità. Allora, a proposito di abitudini sessuali e di sesso, Vanity Fair, giornale che io adoro, riporta i dati della ricerca realizzata da C-Day, il portale di casual dating, su 5.670 persone tra i 18 e i 50 anni. Benissimo, allora, da questa ricerca, cari amici, emerge un po' la mappa delle nuove abitudini sessuali degli italiani. Noi ce la caviamo bene, perché in generale siamo quelli che fanno sesso più spesso, però ci sono ben 6 categorie che ci rappresentano meglio. Ascoltatele, Carmelo Lauricella, che in regia la parte tecnica le manda, poi potete anche naturalmente per ulteriori dettagli leggerle sul numero di Vanity Fair, che vi consiglio sempre di leggere. Voi cercate di capire dove e a quale di questi profili assomigliate di più. Noi siamo qua all'800 24 00 24. Casual lovers sono il 7% degli italiani, per lo più single, a volte sposati, che usa il web per cercare relazioni non compromettenti. Working lovers sono il 29% degli italiani che hanno avuto almeno una relazione d'amore sul posto di lavoro. Breaking lovers sono il 12% degli italiani e sono favorevoli alla coppia aperta, come nella serie TV Swing Town. Sex friend lovers, come Mila Kunis e Justin Timberlake nel film Amici di letto, il 50% degli uomini e il 61% delle donne ammettono di aver sperimentato almeno una volta negli ultimi 2 anni il trombamico. No lovers, il 9% degli italiani, sia single che sposati, rivela di aver smesso di praticare sesso per problemi di salute o per rassegnazione. Weekend lovers, come De Luigi e Lagerini in Come bello far l'amore, sono innamorati ma poco vivaci a letto. Il 52% degli italiani fa sesso una volta alla settimana e di solito solo nel weekend. È la categoria più a rischio di astinenza. Secondo me il sesso è un po' troppo mitizzato ultimamente. Ho capito benissimo. Non trombate. Se per caso cadesse in Giulia, amore mio! Ale. Che bello rivederti! Ah, lui è mio marito. Giulia mi è davvero... Com'è bello far l'amore, in linea con noi abbiamo il piacere di avere Fausto Brizzi. Ciao Fausto, bentornato. Ciao. Stavo cercando di capire a quale categoria appartenevo, insomma. Ti sei fatto delle domande, ti sei dato delle risposte? No, ero incuriosito anche dalle metafore, le rotaie e via discorrendo. Poi Marco mi spiegherà. Allora, ripetiamo. Ciao, Fausto. Perché Fausto, tra l'altro, qua uno dei tuoi attori. Ma sì, fa un meraviglioso cameo, anche perché in qualche modo ne chiacchieriamo da anni, insomma, di questi argomenti. È un po' il mio consulente, visto che i film... Ho sempre parlato di coppie, di amore e stavolta anche di sesso, insomma. E Marco è sempre stato dietro a raccontarmi e quindi in questo film ci mette anche la faccia. Sì, ci mette la faccia e devo dire che adesso un po' di arie da divo se le dà, eh? Ma no, assolutamente no, non mi sono mai dato aria da diva. Assolutamente, assolutamente. Io sono molto amica del dottor Rossi e quindi sono molto felice di averlo trovato nel film di Fausto, e tra l'altro perché se lo merita. Io vorrei ricordare, dottor Rossi, rapidamente le metafore, perché Fausto rimane con noi dopo i mercati e il meteo, quindi amici da casa, raccontateci a che punto è la vostra coppia e utilizzate queste metafore. Bilancia, fiamma, alleanza o rotaia. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo tornati insieme. Oggi parliamo di amore, il giorno lo impone, anche se il dottor Rossi ci suggeriva non parliamone solo e non festeggiamolo solo a San Valentino, ma noi festeggiamo anche Fausto Brizzi, che è qua in linea con noi, regista di Com'è bello far l'amore. Fausto, ribongiorno. Ribongiorno. Hai pensato se alla fiamma, alla bilancia, alla rotaia? A me mi affascina rotaia, insomma, anche perché vengo dal tour promozionale del film, che praticamente ho passato per via del maltempo in treno, e quindi voglio capire bene cos'è sta metafora. Allora, la rotaia è un po' quella, è la coppia che dà molto importanza e molto valore all'unicità del singolo. Ci sono due singoli, no? le due rotaie, che però percorrono il loro percorso di coppia sempre appaiati, sempre uno a fianco all'altro, ma non in maniera fusionale, in maniera indipendente. Quindi l'ego, indipendenza, però mi sempre insieme. Molto questo, vedi? L'ho scelto quasi a caso, insomma, ma mi piace molto. E fiamma? La fiamma è la proprio passione. Quella tipica passione iniziale, quella che noi abbiamo vissuto all'inizio di tutte le nostre, dei nostri rapporti. L'alleanza è l'idea di una coppia che si fonda molto sui progetti, sui figli, sul lavoro, su un'idea di famiglia, no? Sì. Molto forte. Amicizia? Amicizia, no, ma certo, è fondamentale l'amicizia, certo. Però più sul progetto. E poi la bilancia, una coppia che cerca sempre l'equilibrio, no? Che non fa mai nessuno fa mai un passo in più, perché cerca l'equilibrio dello star bene. Quindi la nostra coppia di Com'è bello far l'amore, che secondo queste metafore è una coppia dove c'era la fiamma e adesso si è spenta praticamente. Diciamo la coppia di Fabio Di Luigi e Claudio Girini. Sì. E poi ci sono due ragazzini che invece fanno i trombamici, concetto che avevate espresso poco fa. È vero, perché ci sono anche i dati che abbiamo preso da Vanity Fair, insomma, la figura del trombamico è una figura che si sta imponendo. Dottor Rossi, ma è recente o c'è sempre stata e viene fuori solo ora? Ma diciamo che la definizione è recente, c'è sempre un po' stata l'idea di avere una persona con cui poter far sesso senza implicazioni affettive, molto comoda, no? Anzi, è proprio il trionfo della superficialità. Però in un periodo storico come quello di adesso, dove tanta crisi dall'idea dei rapporti che possono molto evanescenti, avere un amico o un'amica con cui ci si incontra ma poi non ci sono altre implicazioni, dà un po' di sicurezza. Fausto, una commedia sulla coppia, sull'amore o sul sesso? O tutto e tre? Fausto? È una coppia che non fa sesso ma si ama e sta mettendo a rischio l'amore per questa, diciamo, disattenzione a letto, e quindi in qualche modo noi tifiamo per loro perché ce la facciano a superare questo impasse. Perché poi alla fine il sesso è una componente fondamentale, secondo me, però diciamo bisogna lavorarci. Come Marco sa bene, insomma. Bisogna lavorarci, e infatti Claudia affronta il problema e chiede aiuto. Ma secondo te, anzi secondo lei, dottor Rossi, sono sempre le donne, e sono prevalentemente le donne a chiedere aiuto oggi, soprattutto in cui abbiamo preso più consapevolezza del nostro ruolo all'interno della coppia, di quanto sia importante anche l'intesa sessuale, non ci siamo un po' spogliate, no, dei pregiudizi, sì, della cosa che bisogna tacere, sopportare, lo viviamo più da protagoniste. Sì, sono le donne che chiedono aiuto sia quando ci sono dei problemi di coppia a livello di comunicazione o di sentimenti, e pensa che ci sono le donne che chiedono aiuto anche quando i problemi sono di tipo sessuologico tipicamente maschili. E in questo è drammatico pensare che mediamente gli uomini che hanno dei problemi sessuali iniziano a chiedere aiuto circa 3 anni dopo, dicono gli studi, che hanno iniziato a manifestarsi i primi problemi sessuali. Le donne sono molto più attente in questo. Fausto, il film sta andando benissimo, segno che parlare di sesso e parlarlo in modo disincantato, ironico, come tu sei riuscita a fare, aiuta non solo chi il film lo fa e lo vende, ma forse anche chi il film lo va a vedere. È una sorta di commedia che può funzionare anche un po' come un manuale, Fausto? Guarda, sì, noi, metto diciamo, le virgolette. Sì, è un po' un film didattico, tra virgolette, didattico in quel campo lì. Perché diciamo c'è un forte indirizzo sul sesso sicuro e su tanti giochini sessuali diversi. Ovviamente è un film per famiglie e quindi non c'è niente di terribile, insomma, che non possono vedere anche i bambini, però diciamo molte cosine divertenti. Marco l'ha visto e sa. Marco l'ha visto e mi ha detto che ha avuto anche come suggeritrice. Quando l'avete girato, c'era la Claudia Gerini che mi suggeriva le parole delle mie battute. Per quanto brevissima la mia battuta, mi suggeriva anche le parole. Non è da tutti, eh? Avevo un gobbo vivente, ma appesa la, ecco, la Claudia Gerini. Magnifico. Senti, Fausto, qual è il commento che ti ha fatto più piacere sul film? La critica più... Il commento mi ha fatto più piacere è di molte persone, anche amici, registi che l'hanno visto, hanno detto che è un film come non ce n'è un altro, cioè che è diverso comunque dalle commedie che sono in circolazione adesso, e che era esattamente quello che provavo a fare, cioè di fare un nuovo prototipo, cioè un film un po' più anarchico, un po' più goliardico. Chi l'ha visto sa che i primi 10 minuti sono un divertente sfottò di vari generi di cinema. E questo mi divertiva, cioè di non rifare un film che avevo già fatto. Senti Fausto, oggi a San Valentino si mandano i messaggi d'amore, le valentine, come ci ha spiegato il professore di Venezia alias Paolo Legrenzi. Tu che valentina vorresti ricevere? Ah guarda, è il peggior San Valentino della mia vita, visto che sono single, non lo so. C'è una persona da cui vorrei ricevere una valentina. Una valentina, lei lo sa, ma non te lo dirò. Va bene, ma magari lei ci sente, prende il coraggio e scrive. Fammi sapere, poi. Va bene. Stasera il mio film invita ad andare proprio a pomiciare al cinema nei primi minuti, quindi diciamo oggi è la sua giornata. Oggi è la sua giornata, grazie a Fausto Brizzi per essere stato con noi. Grazie a voi, ciao Un Marco. Abbraccio. Ciao Fausto, ciao. Ciao. Giorgio da Novara, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Giorgio. Buongiorno Nicoletta. Senta, io volevo parlare dell'innamoramento, che queste donne sono innamorate degli uomini romantici, noi cerchiamo di essere romantici e poi loro magari pensano e sognano a uomini più che le trattano magari non bene o sono un po' più distaccati. Un esempio sono i film sui vampiri che vanno alla grande adesso tra le ragazze e le donne. Un parere vostro, dottor Rossi. Sono donne, quelle che descrive l'ascoltatore, molto insicure. Le donne che hanno poca autostima si illudono che essere conquistate o lasciarsi conquistare da una persona che le tratta male valga di più e questo le renda più forti. In realtà il primo segno di mancanza d'amore o di incapacità d'amare è quello di non sapere amare se stessi, per cui l'amore quando non fa star bene o quando ti fa sentire totalmente vincolata a una persona, in realtà non è amore, ma è un gioco di potere, di possesso. Essere e benessere. Cioccolatini, rose, valentine o messaggini d'amore. Chi festeggia San Valentino qualcosa spera di ricevere e qualcosa sicuramente ha organizzato per offrire. Dottor Rossi, però una delle accuse che si fanno solitamente al San Valentino e a queste feste in particolare è che siano delle feste ormai molto consumistiche. E lei però ha un suggerimento da dare ai nostri ascoltatori? Sì, perché spendere dei soldi per fare un regalo, quindi qualcosa di concreto? Un'idea che mi è venuta è quella di regalare dei coupon d'amore, diciamo così. Cioè, pensiamo, no, di fare magari un bigliettino in cui, che vale come buono per un qualcosa per la coppia. Faccio l'esempio: dal buono per una colazione a letto, al buono per una passeggiata, al buono magari per uno spogliarello, no? Ognuno può inventare un buono da regalare al proprio partner e quindi si spende niente e invece è un pensiero che può essere molto molto emotivamente forte. Massimiliano da Verona, farai coupon? Ma è una bella idea, mi ha dato una bella, anche perché stavo pensando alle classiche, naturalmente, che non si sa mai cosa fare, ormai abbiamo tutto, il peluche, il cuoricino, le rose, abbiamo tutto. Luca da Monza mi scrive: Nicoletta, diciamo la verità, San Valentino, la festa dei fioristi e dei cartolai, e aggiunge: che palle, con due P e due L, le due L vanno bene, Luca. E invece noi l'abbiamo battuto nel tempo, perché il dottor Rossi ha già suggerito delle cose che senza, no, anche i fiorai è giusto che lavori, i cartolai, eccetera, ma chi vuole può fare altro, ad esempio i coupon. Massimiliano, lei lo farà? Ma sì, io ho telefonato per un'altra cosa, per la problematica che ho con la mia lei. Lei è molto introversa, prima quando ho acceso naturalmente parlavate del dialogo, tutto il resto. Come faccio? A me serve il cavatappi per tirargliele fuori, non so più cosa inventarmi. Aspetto un aiuto, questo discorso. Ma un'idea, adesso sai, senza conoscere la persona in questione non è una cosa semplice, ma mi viene in mente l'idea di regalarle dei libri che siano di argomento di letteratura erotica, magari non troppo hard, ma magari in modo da poter stimolare le sue fantasie, e quando le fantasie sono stimolate molto spesso si riesce di più a esprimere le proprie emozioni e quello che si ha dentro. È un'idea, senza conoscere la persona, però può essere un'idea buona. E noi, oltre a libri cioccolatini, libri erotici come suggeriva il dottor Rossi, ma anche questi coupon, oggi molte coppie si riuniranno per una cenetta, magari a lume di candela. Un'equipe di nutrizionisti di Humanitas Gavazzini di Bergamo ha stilato una serie di suggerimenti per chi vuole festeggiare con una cenetta a due. Una premessa: i fondamenti scientifici non sono sempre chiari, le correnti di pensiero sono varie, a volte contrastanti, ma se ancora non avete fatto la spesa, ecco qualche idea. Primo consiglio: puntare su pesci, crostacei e ostriche. Sono tutti cibi ricchi di fosforo che incitano l'attività cerebrale e, secondo una tradizione vecchia di secoli, fanno aumentare il desiderio sessuale, ma anche i livelli di potassio, sodio, ferro e vitamina A, elementi fondamentali per un corretto regime alimentare. Secondo consiglio: le spezie. Tutte le spezie, e in particolare il peperoncino, stimolano olfatto e gusto, contengono sostanze che dilatano i vasi sanguigni e aumentano l'ossigenazione del sangue. Lo zenzero, ad esempio, spiegano i nutrizionisti, è un efficace rimedio contro l'affaticamento, l'astenia e l'impotenza. I medici asiatici se ne servono infatti sia come antisettico che per stimolare la circolazione e impedire il vomito. Terzo consiglio: per quanto riguarda il dessert, il cioccolato è irrinunciabile. Le sue proprietà sono famose: facilita la produzione di endorfine, sostanze prodotte dal cervello che stimolano le sensazioni di euforia e attenuano quelle di dolore, fa aumentare il livello di serotonina nel sangue, che a sua volta contribuisce al miglioramento dell'umore, contiene alcaloidi che intervengono sul sistema nervoso e cardiocircolatorio. Quarto consiglio: accompagnare il tutto con un bicchiere di vino, che rilassa e disinibisce, ma senza esagerare. L'alcol in quantità elevate può indurre sonnolenza piuttosto che stimolare il desiderio sessuale. E un'avvertenza: attenzione a non esagerare con le porzioni. Una digestione lenta e faticosa non è l'ideale per la serata dedicata al patrono degli innamorati. Per saperne di più vi invito ad andare su Salute 24, da cui abbiamo tratto questa notizia. Dottor Rossi, quello che è importante è non esagerare, perché l'Eros rischia di addormentarsi. Sì, l'Eros con troppo cibo e troppo alcol non va bene, però l'Eros e la cucina vanno molto d'accordo, quindi anche, diciamo, un'altra idea è quella di stasera magari cucinare insieme, perché non c'è niente di più afrodisiaco che essere insieme in cucina. E assaggiare. Poco per volta. Allora adesso per San Valentino mangiate quello che volete, mangiate con chi volete, festeggiate se volete festeggiare, non festeggiate, aspettate il domani, magari una Valentina vi manderà un messaggio e vi dichiarerà il suo amore, quindi se anche siete single avete tempo di diventare coppia, perché da domani, da oggi io vi faccio un invito. Mangiate con me, mangia con me tu, caro ascoltatore, che vuoi cambiare un po' il tuo stile alimentare per recuperare tono, energia, vitalità e buon umore, anche per mantenere e migliorare la tua salute. L'idea è questa: andate sul nostro sito, compilate un questionario, candidatevi, ci sono tante delle informazioni interessanti e voi potreste, uno di voi, una volta alla settimana, potrebbe raccontare in diretta il suo stile alimentare. Ricevere i consigli del dottor Ongaro e della dottoressa Reverso, che sono già in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Un saluto corale. Dottor Ongaro, mangia con me. Diciamo che l'idea è stata descritta, è l'idea di far partecipare gli ascoltatori ad un cambiamento di stile nutrizionale guidato da noi in trasmissione, dando dei consigli concreti per rendere questo cambiamento non solo più facile ma anche più divertente e gustoso. Tra l'altro il decalogo, il menù che avete appena descritto per questa serata dedicata all'amore, se notate bene, è poi quello dedicato alla salute stessa. Abbiamo parlato di pesce, abbiamo parlato di vino rosso, abbiamo parlato di cioccolata, cibi che nel concetto nutrigenomico di alimentazione oggi sono molto rivalutati e hanno un ruolo molto importante. Allora mangia con me insieme anche alla dottoressa Reverso per imparare ad aggiungere varietà anche alla nostra dieta, senza delle rinunce che in qualche modo ci possono pesare. Le rinunce non mi piacciono, a me piace aggiungere varietà, aggiungere sapore, aggiungere emozione. E visto che ho ascoltato tutta la trasmissione, parliamo di San Valentino, ricordiamoci che dobbiamo volerci bene e che bastano 5 minuti al giorno per ricordare a noi stessi che siamo persone importanti con i nostri difetti, non importa, vogliamoci bene e quindi... Mangia con me, Nick. Allora, grazie dottoressa Reverso, mangia con me, e quindi è il nuovo progetto, potete andare sul nostro sito, dottor Rossi, vada anche lei, avrete un questionario, i nostri esperti raccoglieranno tutte le informazioni, ci sarà una mail, qualcuno di voi sarà raggiunto, vi chiederemo di partecipare, diventerete un po' il nostro ascoltatore tipo, partiremo dalla vostra storia, ma naturalmente per allargare i consigli a chi ci sta ascoltando e poi grande sviluppo anche sul nostro sito. Mangia con me. Grazie al dottor Ongaro, alla dottoressa Reverso, che sono già al lavoro. Dottor Rossi, buon San Valentino. Grazie. Per tutto il resto dell'anno. Grazie, per oggi è tutto. Io sono assolutamente in linea, perfetta. Carmelo, grazie a Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Mi raccomando, io ve lo chiedo, scaricatemi. Abbiamo Twitter, il profilo Facebook, la nostra mail, teniamoci in contatto. Essere e benessere.